parte il suo tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto, cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento. Luna di maggio brucia il legno per una donna ed un sogno, biondi capelli stretti i fianchi per una donna dei bianchi, occhi di donnola, bocca di fragola, pelle di nuvola, freccia che penetra. Luna di maggio gialla falce, grido d'amore dell'alce, ombre di carri nella sera, fuochi di gente straniera, fiamme che ballano, occhi di cenere, veste